Leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 16 e versetti da 13 a 20. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: Alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. Egli disse loro: E voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendogli disse: Tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù, il Cristo. Cattolici e protestanti sono divisi, da secoli, a causa di un annoso problema che sembra non avere una soluzione. Per il cattolicesimo Pietro è il primo papa, per il protestantesimo no. Desidero dare anch'io il mio contributo per risolvere questo problema. Dal momento che tutti siamo, più o meno, condizionati dalla fede che professiamo, ho pensato di affrontare l'argomento da un punto di vista insolito. Penso che siamo tutti d'accordo nell'affermare che, al successore di un capo di Stato, occorrano doti, quali esperienza politica, indiscussa onestà, lealtà verso lo Stato, e che al direttore d'azienda si chiedono qualità manageriali e fermezza decisionale. Nello stesso modo, chi succeda a Pietro come conduttore spirituale deve avere le sue stesse caratteristiche. Che caratteristiche aveva Pietro? A questa domanda non si può certamente rispondere in modo evasivo, né tentare di dare una risposta approssimativa, e neppure inventare qualche sua peculiarità. Siamo quindi obbligati a leggere ciò che Pietro ha fatto e insegnato. Inevitabilmente troviamo queste informazioni nei soli documenti che abbiamo a disposizione, i Vangeli e le lettere del Nuovo Testamento. Ecco quindi alcune caratteristiche che possiamo riscontrare in Pietro. 1. Egli sapeva svolgere un mestiere, Matteo 4:18. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Pietro faceva il pescatore quando fu scelto da Gesù. Un mestiere del genere comporta una vita dura, svolta, talora, in condizioni difficili. Per ogni ebreo il lavoro era sacrosanto, fondamentale. La ragione sembra ovvia. Chi lavora è una persona pratica, vive in una dimensione umana, essendo a contatto con la quotidianità delle cose, egli è generalmente più comprensivo di chi invece è avvezzo unicamente allo studio e rischia così di diventare un idealista ignaro dei problemi concreti. Significativa l'affermazione di quel rabbino insegnante delle scritture che diceva: Colui che non insegna a suo figlio un mestiere utile lo fa crescere, perché diventi un ladro. Vale la pena ricordare che Paolo era costruttore di tende e Gesù un falegname. Un successore di Pietro deve quindi possedere un certo senso pratico. 2. Egli è stato scelto da Cristo, Matteo 4, 18-19. E disse loro: Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Desiderare cose buone è giusto e doveroso, ma nel campo di Dio non sempre i nostri desideri rientrano nei suoi piani. Davide desiderava costruire il Tempio, ma, pur approvando le sue buone intenzioni, Dio non glielo permise. L'uomo indemoniato, subito dopo essere stato guarito, avrebbe voluto seguire Gesù, ma ricevette invece l'ordine di andare a casa sua, a testimoniare di ciò che gli era successo. Così, per essere un apostolo come Pietro, non occorre solo la buona volontà e nemmeno una trasmissione automatica o un mandato umano. Punto è necessario avere avuto la stessa esperienza che ebbe Pietro, essere stato scelto, quindi, direttamente da Gesù Cristo e averlo seguito. Prova ne è che gli apostoli, cercando un sostituto al posto di Giuda, lo scelsero fra quelle persone che avevano seguito Gesù ed erano state testimoni della sua resurrezione. Un successore di Pietro deve quindi aver visto Gesù ed essere 3. Egli conosceva le scritture. 1 Pietro 2, 6. Nella sua prima lettera Pietro scrisse, infatti si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Nel Nuovo Testamento abbiamo due lettere dell'Apostolo Pietro. Anche da una lettura superficiale, notiamo subito il suo continuo riferirsi ai libri sacri degli Ebrei, che formavano l'Antico Testamento. Per lui questi libri costituivano il fondamento della sua fede e della sua predicazione. Egli predicava la parola di Dio e non la tradizione millenaria del suo popolo, quantunque Israele fosse il popolo di Dio. Ho conosciuto dei sacerdoti cattolici che sono diventati ministri di Dio senza aver studiato la parola di Dio, e altri che hanno studiato la Bibbia solo come supporto per convalidare le dottrine della religione. Ma, per la grazia di Dio, altri sacerdoti cattolici hanno abbandonato la religione e l'autorità degli uomini per seguire e sottomettersi all'autorità di Cristo. Un successore di Pietro deve nutrirsi quindi della parola di Dio. 4. Era sposato. Marco 1, 29-31 e 1 Corinzi 9, 1-5. O la suocera di Simone era a letto con la febbre. O non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? Gesù guarì la suocera di Pietro. Che Pietro fosse sposato, che gli apostoli avessero famiglia, era una situazione del tutto normale, anche al tempo di Gesù. Infatti molti fra i più grandi uomini di Dio lo erano, Abramo, Mosè, Isaia, eccetera. Una moglie nel servizio per Dio non è un ostacolo. Prova ne è che Pietro portava con sé sua moglie, persino nei suoi spostamenti. Per Dio il celibato è un dono, che non è però dato a tutti, Matteo 19,12. Lo dimostra il fatto che sacerdoti, vescovi e papi hanno praticato l'adulterio e l'omosessualità. Imporre il celibato a chi desidera lavorare nel campo di Dio è una responsabilità di cui il cattolicesimo dovrà rendere ragione. Per guidare spiritualmente e praticamente delle persone necessitano esperienze di conduzione, e chi meglio di un marito e padre ne ha? Lo stesso Paolo, quando scrive a Timoteo, non scoraggia chi desidera l'ufficio di vescovo, cioè di conduttore, ma pone come condizione che egli sappia governare la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Poi aggiunge, ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? 1 Timoteo 3, 4-5. Il matrimonio quindi ha reso più completo l'apostolato di Pietro. Un successore di Pietro di conseguenza non abolisce il matrimonio. 5. Fu mandato a predicare il Vangelo. Matteo 4, 18-19. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. A molti sfugge questa verità. Chi vuole essere un successore di Pietro deve costantemente ricordare che la sua missione principale è quella di predicare l'Evangelo. Egli non deve presentare una propria religione, ma predicare la buona notizia, il che significa annunciare alla gente che, per natura, si è figli del diavolo ed inevitabilmente perduti, e che è necessaria una conversione personale per diventare figli di Dio, ereditando così di conseguenza e solo in questo modo la vita eterna. Il Vangelo non è un semplice appello alla buona condotta, non è neppure un messaggio politico. Tantomeno, è di parte. Non è un annuncio amabile che solletica la natura dell'uomo. Per questa ragione, non è accolto con acclamazione dalla maggioranza. Il Vangelo è un messaggio duro, che mette in crisi, che colpisce e rivoluziona la vita di una persona, infondendo però nel frattempo certezze. Non solo in questa vita, anche in quella futura. Ecco perché, quando a Pietro fu vietato di parlare, egli rispose alle autorità religiose per ben due volte che era meglio ubbidire a Dio anziché agli uomini. Atti 4, 18-25, 27-32. Un successore di Pietro deve quindi ubbidire a Dio nel predicare l'Evangelo. 6. Egli dava autorità alle Scritture. 2 Pietro 1, 16-21. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a Lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questi è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Pietro ha realizzato le esperienze di un uomo di Dio, ma soprattutto ne ha vissuta una, impossibile ad altri. Ha visto Gesù nella gloria e ha udito la voce di Dio, che confermava il carattere divino del Cristo. Egli era felice di poter raccontare questa esperienza unica, fatta con Giovanni e Giacomo. Nonostante questo, esortava i cristiani a dare più valore alla parola di Dio, perché la riteneva una parola profetica più certa, cioè più ferma, più sicura, più salda. Per Pietro, la visione che aveva avuto personalmente e la sua esperienza spirituale, per quanto sublimi e importanti esse fossero state, erano comunque inferiori all'autorità della parola di Dio. Non regge quindi ciò che afferma il catechismo della religione cattolica romana. La sacra tradizione e la sacra scrittura sono tra loro strettamente congiunte e comunicanti, poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine, 80. Perciò, l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto, 82. Un successore di Pietro, quindi, non riterrà la tradizione e l'esperienza degli uomini di Dio al pari della parola di Dio. 7. Egli veniva ripreso quando sbagliava. Galati 2, 11-15. Ma quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente, secondo la verità dell'Evangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti: «Se tu, che sei giudeo, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare?» Pietro era un uomo che sbagliava. Non veniva chiamato Santo Padre, perché Gesù aveva detto espressamente: «Non chiamate alcuno sulla terra vostro Padre, perché uno solo è vostro Padre, colui che è nei cieli», Matteo 23, 9. Evidente che Gesù non si riferisse al Padre terreno, ma a quello spirituale. In Pietro c'erano errori che andavano pubblicamente ripresi per il bene della Chiesa. Paolo non ha avuto timore di infangare la sua reputazione. Infatti, insieme a Giacomo e Giovanni, egli era reputato una delle colonne del cristianesimo, né si è scusato quando si è permesso di riprenderlo. La figura di Pietro, nella parola di Dio, è quella di un uomo pieno di amore e di zelo per Gesù, ma anche pieno dei normali limiti di ogni essere umano. Un successore di Pietro non è quindi né perfetto, né santo, né santissimo. 8. Il suo messaggio era per i cristiani un incitamento a leggere e a credere le Scritture. 1 Pietro 2:2, 2 Pietro 3:1-2. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Vi erano varie tradizioni giudaiche orali, raccolte in seguito in un libro chiamato Talmud, ma le sue lettere non si basano su queste tradizioni. Nelle due epistole che ha scritto, egli si è preoccupato di esortare i cristiani a desiderare il puro latte e ad usare la mente per ricordare le parole dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore. Un vero apostolo e successore di Pietro deve indirizzare i cristiani alla lettura della parola di Dio. È vero che la prima generazione dei cristiani non aveva ancora il Nuovo Testamento scritto, ma in seguito furono solo le lettere degli apostoli ad essere definite le sacre scritture e non la tradizione dei padri. Per questo la tradizione e la sacra scrittura non scaturiscono dalla stessa divina sorgente e non possono essere accettate e venerate con pari sentimento. Un successore di Pietro quindi incita i figli di Dio a leggere le scritture e ritenerle l'unica norma per la fede e la condotta, l'autorità decisiva in tutte le questioni riguardanti la dottrina e la pratica cristiana. 9. Egli faceva miracoli nel nome di Gesù. Atti 3, 1 a 9. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio e vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. E con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. Luca, nel libro degli Atti, ricorda le opere degli apostoli, soprattutto quelle di Pietro e Paolo. Entrambi hanno operato dei miracoli, ma si sono anche preoccupati di dire di essere stati in grado di compierli per la fede e nel nome di Gesù. Nessun miracolo di Pietro fu fatto mai nel nome di un'altra persona. Anzi, Pietro stesso testimoniò che in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è e altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Atti 4 e 12. Il miracolo, secondo Pietro, non costituiva un elemento fondamentale per la fede cristiana, perché egli sapeva che anche il diavolo può compiere segni, miracoli e prodigi. 2 Tessalonicesi 2, 9. Il solo ed unico fondamento del cristianesimo è sempre stata la vera fede in Gesù Cristo. Un miracolo, compiuto nel nome del vero Dio, spinge le persone, come fu nel caso di Pietro, a lodare solo il Dio degli ebrei, Gesù Cristo. Un successore di Pietro onora, quindi, sempre e solo Gesù Cristo. 10. I religiosi gli si opponevano. Atti 4, 1, 7, 18. Il giorno seguente i loro capi, con gli anziani e gli scribi, si riunirono a Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote, Caiafa, Giovanni, Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni, domandà: allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani di Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno ad un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. In nessun altro vi è la salvezza, poiché non quaren che ha alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Il messaggio di Pietro, come quello degli altri apostoli, urtava i religiosi ebrei, nonostante questi insegnassero la legge di Dio. Egli non ha mai cercato la loro approvazione e neppure cercò, mai, quel compromesso che noi oggi chiamiamo ecumenismo. Pietro sapeva che il suo messaggio era scandalo e pazzia. Era cosciente che la ragione fondamentale dell'opposizione religiosa non fosse da ricercare nel modo con cui questo messaggio veniva presentato, ma, piuttosto, nella natura della croce stessa. Per questo, i primi cristiani, Pietro compreso, erano qualificati come setta e incontravano opposizione dappertutto. Atti 28:22. Se il messaggio odierno non incontra più opposizione, bisogna dedurre due cose. O le persone sono migliorate, cosa impossibile perché la natura umana non è cambiata nel corso dei secoli, o il Vangelo presentato dai religiosi è stato spogliato del suo carattere scandaloso. Poiché ancora oggi sono molti quelli che credono al vero Vangelo, significa che i religiosi presentano solo una forma, ma non la sostanza, del cristianesimo. Un successore di Pietro non cerca quindi l'approvazione degli altri religiosi. 11. Egli era un uomo che sbagliava come tutti gli altri. Matteo 26, 31-35. Allora Gesù disse loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendogli disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Abbiamo già accennato al lato umano di Pietro. In effetti gli Evangeli ci riportano molti fatti relativi a Pietro, non solo positivi, ma anche negativi. Mentre gli Evangeli non riportano tutti i miracoli di Gesù e i suoi insegnamenti, tutti e 4 gli Evangelisti ricordano il rinnegamento di Pietro. Il Signore ha ispirato così gli Evangelisti, perché gli uomini esaltandolo non facessero di lui il fondamento per la propria fede. Pietro, rimproverando Gesù perché era pronto a morire sulla croce, ricevette da lui questa risposta: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Spinto da un amore umano, Pietro si comportava come un vero avversario di Gesù. Se Pietro è la roccia sulla quale la Chiesa è costruita, povera Chiesa. Un successore di Pietro è quindi, normalmente, umano. 12. Egli riconosceva come unico pastore Gesù. 1 Pietro 2, 24-25. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, e per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. Pietro aveva ricevuto il compito di pascere il gregge. Egli lo svolse con tanto amore. Nonostante ciò, egli scrisse ai suoi lettori che il pastore e il guardiano delle loro anime era Gesù. Questo discorso, calato nella realtà, porta ogni credente a ritenere il conduttore spirituale nella sua giusta posizione. Quando Gesù disse: ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli, Matteo 23:8, significa che il credente deve dipendere direttamente da Cristo. Quando Gesù disse: né fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo, Matteo 23:10, intendeva affermare che il credente non deve sopravvalutare l'autorità spirituale, ma riterrà Cristo l'unica guida e maestro della sua vita. L'autorità spirituale sarà tale fino al giorno in cui non insegnerà cose contrarie all'insegnamento di Cristo. In tal caso, colui che avrà affidato la sua vita a Cristo disubbidirà all'autorità religiosa, come fecero Pietro, gli apostoli e i primi cristiani, perché il vero e unico pastore è Gesù Cristo. Un successore di Pietro, quindi, indica Gesù come il pastore della Chiesa. 13. Egli ha cambiato la sua espressione religiosa, Atti capitolo 11, 1 a 3. Or gli apostoli e i fratelli che erano in Giudea vennero a sapere che anche i gentili avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, quelli che erano circoncisi contendevano con lui, dicendo: Tu sei entrato in casa di uomini incirconcisi e hai mangiato con loro. Pietro era orgoglioso come ogni giudeo di appartenere al popolo eletto e di osservarne tutti i riti e i costumi. Da 2000 anni i giudei avevano ricevuto l'ordine, da Dio, di astenersi da cibi impuri. E loro, per non contaminarsi, ritenevano illecito, pure, associarsi ad uno straniero o entrare in casa sua. Versetto 28. Ma, quando Dio ha cambiato piano riguardo agli stranieri, Pietro lo ha accettato. Pur andando contro una tradizione millenaria. Il Tempio era per Pietro, come per ogni altro ebreo, un luogo sacro di incontro con Dio. Con la venuta di Gesù egli ha accettato che i veri adoratori avrebbero adorato Dio in spirito e verità. Per questo si riuniva nelle case con altri cristiani. Per ricordare la morte di Gesù con quella che era chiamata la cena del Signore, prendendo cioè del pane e del vino. Egli ha cambiato la forma religiosa, espressa nella legge di Dio, per viverne la sostanza. Un successore di Pietro non si vanta quindi della tradizione religiosa. 14. Egli battezzava chi aveva creduto. Atti 2 e 41 e 10 e 48. Allora Pietro disse, c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Per Pietro il battesimo non conferiva nessuna grazia, era solo una testimonianza di fede da parte di coloro che avevano creduto. Infatti, nel caso di Cornelio, l'Apostolo comandò che fosse battezzato, perché aveva già ricevuto lo Spirito Santo. Pietro battezzava gli adulti, quando era possibile, nei fiumi, dove l'acqua era alta, perché il battesimo avveniva per immersione. Nella parola di Dio non vi è nessun accenno al battesimo dei neonati, anche perché nessun neonato può essere in grado di credere in Gesù. Se il battesimo fosse il sacramento della fede, Paolo avrebbe commesso un grosso errore, non avendo egli come scopo della sua vita di battezzare, ma di evangelizzare. È quindi insostenibile l'opinione della religione cattolica, secondo la quale la Chiesa e i genitori priverebbero quindi il bambino della grazia inestimabile di diventare figlio di Dio se non gli conferissero il battesimo poco dopo la nascita. 1250. Quindi, un successore di Pietro non battezza dei bambini. 15. Egli non era il capo dei cristiani, Colossesi 1 e 18, Efesini 1 e 10 e 22, Galati 2 e 9. Egli, Cristo, è prima di ogni cosa. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Gesù Cristo ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Paolo ha sempre dichiarato nelle sue lettere che il capo della Chiesa era Cristo, e questo, quando Pietro era antico. Non vi è nessuna indicazione, sia nei Vangeli che nelle lettere, che Pietro fosse il capo della cristianità. Anzi, quando Tertullo volle accusare Paolo, indicò lui come il capo della setta dei Nazareni, cioè dei cristiani. Nel concilio di Gerusalemme non fu Pietro ad avere l'ultima parola, ma Giacomo. Nel collegio dei dodici Pietro non occupava il primo posto, perché, nonostante che i discepoli si conoscessero bene e anche che Gesù avesse detto a Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, i dodici chiesero a Gesù chi fosse il maggiore fra loro. Marco 9, 33, 34. Egli era una delle tre colonne del cristianesimo. Nonostante questo, il primo concilio della cristianità non è stato presieduto da Pietro. Atti 15 e 13. Che Pietro fosse solo un semplice apostolo è dimostrato dal fatto che venisse mandato dagli apostoli, Atti 8 e 14, e che a nominare il dodicesimo apostolo in sostituzione di Giuda non fosse lui, Atti 1 e 26. Nella sua prima lettera egli non si attribuisce nessuna superiorità, affermando semplicemente io che sono anziano con loro, 1 Pietro 5 e 1, Un successore di Pietro non si ritiene quindi il capo della cristianità. 16. Egli non si faceva venerare. Atti 10, 23-27. Allora Pietro li invitò ad entrare e li ospitò. Poi, il giorno seguente, andò con loro, e alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Il giorno dopo entrarono in Cesarea. Or Cornelio li stava aspettando, e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli andò incontro, gli si gettò i piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati, sono anch'io un uomo», e conversando con lui entrò e trovò molte persone radunate. È facile per una persona influente nel campo religioso essere oggetto di venerazione. È sufficiente guardare la realtà intorno a noi. Il libro degli Atti narra che Cornelio, un pagano, vedendo un uomo mandato da Dio, cioè Pietro, gli si inginocchiò spontaneamente davanti. Pietro corresse subito il suo gesto, dicendo: «Alzati, sono anch'io un uomo». Stupendo! Pietro apparteneva alla vera religione, era un uomo scelto da Gesù, era un apostolo, aveva avuto la promessa delle chiavi del regno, era una delle colonne del cristianesimo. Davanti a lui stava un uomo che, per la sua cultura, rappresentava soltanto un misero pagano. Eppure l'apostolo non ha accettato né baciamani, né inchini, nessun gesto che potesse conferirgli alcuna superiorità. Egli sapeva di non avere alcuna preminenza e disdegnava, nel modo più assoluto, ogni gesto onorifico. Ritenere quindi il Papa vicario di Cristo e di conseguenza degno di essere onorato come tale non ha nessun supporto scritturale. Anzi, forse il termine che sarebbe più appropriato attribuirgli per le funzioni e i diritti che quest'ultimo si è arrogato è anticristo. Considerato che la parola anticanti significa sostituzione o in luogo di, allora perché dovrebbe essere proibito o motivo di scandalo chiamarlo con un appellativo che definisce, e molto bene, il suo reale compito? Chi sia successore di Pietro, quindi, non accetta nessun gesto di venerazione. 17. Egli era povero. Atti 3, 1-7. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. E vi era un uomo, zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni fissando gli occhi su di lui, disse: «Guarda noi». Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse: «Io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina». E presolo per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono. Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» Quando Pietro, assieme a Giovanni, vide un bisognoso, confessò di non avere né oro né argento per aiutarlo, ma usando la fede nel Signore Gesù, lo guarì. La ricchezza non è mai stata la caratteristica né di Gesù né dei suoi discepoli né tantomeno di Pietro. È difficile, se non impossibile, essere dei presunti successori del cosiddetto primo Papa, avendo delle caratteristiche completamente diverse dalle sue. Non è certamente una novità che la religione cattolica romana possegga il più grande tesoro del mondo. Come può essa giustificare tali beni davanti al mondo e, soprattutto, davanti a Dio? Perché non usare le sue ricchezze per aiutare i poveri? Principio questo, così assiduamente predicato dal Papa stesso. Un successore di Pietro quindi predica e vive senza inestimabili tesori. 18. Egli aveva la certezza di essere salvato. 1 Pietro 5, 1-3. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete egregie di Dio che è fra voi. sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati ma essendo i modelli del gregge. Egli credeva che non avrebbe avuto una morte naturale, perché Gesù glielo aveva preannunciato, 2 Pietro 1,14, ma credeva altresì che egli lo avrebbe fatto partecipe della sua gloria. Non aveva dubbi al riguardo, era certo che alla sua morte sarebbe andato con Cristo. Non affermò che, forse, sarebbe stato salvato. Non parlò di un luogo di purificazione nell'aldilà. Non insegnò che si poteva commettere un peccato mortale o veniale. Era certo delle preziose e grandissime promesse di Cristo. Si racconta che un figlio di Dio chiese al Papa dove sarebbe andato al momento della sua morte, ed egli rispose: «Se muoio in grazia di Dio, vado in cielo». Se, come può un capo religioso infondere sicurezza e serenità ai fedeli? Se egli stesso dubita delle promesse di Gesù, Gesù ha sempre affermato che chi crede in Lui ha la vita eterna. Gesù non ha mai parlato al futuro per quello che riguarda la salvezza. Le sue affermazioni relative all'argomento hanno sempre riguardato il presente. Un successore di Pietro è certo, quindi, di andare in cielo. 19. Egli era nato di nuovo, 1 Pietro 1, 3 e 22-23. O benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, o avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità mediante lo Spirito per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Pietro seguiva l'ebraismo, la giusta religione davanti a Dio, ma questo non bastava perché egli facesse parte del popolo di Dio. Era stato circonciso, ma non per questo egli era certo di andare in cielo. 1 Corinzi 10, 1-6. Era stato scelto da Gesù come apostolo, ma anche questo non era sufficiente per essere certo della salvezza. Anche Giuda, infatti, fu scelto, ma fu perduto. Pietro era felice di testimoniare d'aver sperimentato la nuova nascita quando era già adulto, ponendo la fede nelle parole di Gesù. Per questo egli predicava l'Evangelo, affermando che la parola di Dio, vivente e permanente, aveva l'autorità di rigenerare. Così vale anche per oggi. Non è sufficiente appartenere alla religione giusta per essere salvati. Non serve avere un rito religioso come il battesimo per diventare un figlio di Dio. Non è sufficiente servire Gesù Cristo e parlare del suo nome. Infatti, nell'Evangelo di Matteo, si legge che Gesù caccia all'inferno coloro che hanno predicato e fatto miracoli nel nome di Gesù. L'unica certezza per evitare l'inferno è la nuova nascita, che si ha soltanto mediante un atto di fede nell'opera sostitutoria di Cristo. Un successore di Pietro ha realizzato quindi la nuova nascita. 20. Per Pietro il sacerdozio era universale. 1 Pietro 2,5. Accostandovi a lui, come a pietra vivente rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale gradita a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Al tempo di Pietro i sacerdoti rappresentavano da 2000 anni e il messaggio di Gesù era teso a rivoluzionare la cultura del popolo ebraico e il loro modo di pensare. In virtù di questo, Pietro, accogliendo le parole del suo maestro, poté affermare che tutti i destinatari della sua lettera svolgevano un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Con la venuta di Gesù, il sacerdozio appartiene ad ogni figlio di Dio, il quale può intercedere senza intermediari direttamente a Dio per il suo beneplacito. Secondo la parola di Dio, infatti, Gesù è il sommo sacerdote che intercede per coloro che si apprestano a Dio, dando la possibilità ad ogni figlio di Dio di essere un sacerdote. Il successore di Pietro, quindi, predica il sacerdozio universale. Queste sono state alcune delle caratteristiche di Pietro. Esse, quindi, dovrebbero trovarsi nei suoi successori. Se questi veramente volessero considerarsi tali, allora, mi si chiederà, Come spieghi la famosa affermazione di Gesù? Tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Nessuna difficoltà. Pietro stesso ne dà la spiegazione, nella sua prima lettera. Spogliatevi dunque di ogni specie di malizia, di ogni inganno, ipocrisia, invidia e di ogni genere di maldicenza. Come bambini appena nati bramate il latte spirituale non adulterato per crescere con esso nella salvezza. Seppure avete gustato che è buono il Signore, avvicinatevi a Lui, pietra vivente, scartata dagli uomini, ma eletta e onorata presso Dio, poiché ci è nella scrittura minore minore. Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso maggiore maggiore. Onore dunque a voi che credete, ma per coloro che non credono minore minore la pietra che i costruttori scartarono, proprio essa è diventata la testata d'angolo maggiore maggiore, e pietra d'inciampo e roccia di scandalo. 1 Pietro 2, 1 a 7. Ho citato appositamente la seguente traduzione, tratta dalla Bibbia Cattolica Romana del reversetto P. Bonaventura Mariani, tradotta sotto la sua direzione, avente l'imprimatura in data 16 ottobre 1964, nella quale il commento relativo ai versetti suddetti è il seguente. Cristo è la pietra vivente, fondamento della Chiesa, i Corinzi 10:4. Fu rigettato dagli ebrei, ma nelle mani di Dio servì a costruire l'edificio santo della nuova alleanza. Pietro ricorre a questa immagine anche nel discorso di Atti 4 e 11. Nessun problema quindi per alcuni studiosi cattolici nell'attribuire il significato della pietra a Gesù. E non solo in questo brano, ma in tutte le altre parti della scrittura. Perché allora il cattolicesimo, rifacendosi a Matteo 16 e 17, continua ad attribuire il significato della pietra a Pietro, affermando che egli è, appunto, il fondamento di quella che sarebbe stata la sua chiesa, o del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua chiesa. Paragrafi 586 e 881 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Non so capacitarmene, anche perché l'esegesi che vuole identificare la pietra con l'Apostolo Pietro è molto tardiva e non si trova affatto presso gli antichi padri della Chiesa quali Crisostomo, Origene e Agostino. Quest'ultimo scrisse, nel commento al Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, poiché tale pietra, in effetti, era Cristo, e Pietro stesso si appoggia su questo fondamento. Anche Paolo scrisse ai cristiani di Efeso, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo stesso la pietra angolare. Efesini 2 e 20. Non c'è, è dubbio, la pietra angolare della Chiesa è Cristo. Ed il fondamento di questa è l'insegnamento degli apostoli e dei profeti. E se ciò non bastasse, degno di nota è ciò che troviamo scritto nel grande commentario biblico cattolico della Quiriniana, marzo 1974, in merito all'autorità esegetica dei padri, a pagina 1637. In un passo dove si potrebbe sperare di trovare l'unanimità, e cioè nell'applicazione a Pietro di MT 16:18, si scopre, per esempio, che né Agostino né Crisostomo videro in Pietro la. Se la mia posizione radicale fosse controproducente per un colloquio con un appartenente al cattolicesimo, sarei anche disposto personalmente ad accettare Pietro come primo papa, dal greco padre, a condizione però che tutti i suoi successori abbiano le sue stesse caratteristiche. Sapeva svolgere un mestiere, era stato scelto direttamente da Cristo, non era il capo dei cristiani, era sposato, predicava il Vangelo, conosceva le scritture, dava ad esse la massima autorità, spingeva i cristiani a riporre fede nella parola di Dio, faceva miracoli solo mediante la fede in Gesù, aveva l'opposizione dei religiosi, era un uomo che sbagliava come tutti, veniva ripreso quando fosse necessario, ha cambiato la sua espressione religiosa per conformarsi alla volontà di Dio, battezzava per immersione le persone adulte consapevoli e dopo che queste avevano creduto era povero. E non si faceva venerare né onorare, e rifiutava qualsiasi reverenza o rispetto devoto per la sua immagine religiosa, riconosceva come unico pastore delle anime Gesù, riconosceva pure l'universalità del sacerdozio. Questo è il Papa che io personalmente sarei anche disposto ad accettare e seguire, dal momento, però, che ne ho già uno, Gesù Cristo, il grande sommo sacerdote, che non muore mai, Ebrei 4,14, non vedo perché io debba cambiare. 198, febbraio 2003, Ellero.